maggiordario s'inclina. Che sembianza divina! E tu pur anch'io noto, e dell'inclita stirpe tanto i pregi secondi. Non parli? A chi non vedi? E tu rispondi? Il tuo nobile aspetto per sue illustre nell'avversa fortuna di recarci conforto ebbe speranza. Mi infiamma in sé quella gentil sembianza. Cargo dispongi me e di trionfi onusto con gli occhi dei superbi giacino alberga. Io stringer spero intanto ben Carpago ed Oronte a me il contenda il glorioso scettro, e se non sdegni te per conforto accetto dell'impero e del letto. Al geloso martir mi punge il petto. Che mai vuol dire? Per me rispondi argento, pazza da catene. E perché sta lontana? Le sue veci io sostengo. Corre lunga stagione che ad oppirmare della sua fronte affamo. Soffritaci mio cor. E ben più volte io di noti amorosi fogli sparsi e in un coffogli e lacrime e sospiri. Ma giacchella lontana fa che soffrire si inutili martiri. Se gli verche punta, stimolo di pietà all'anime grandi, te che lo puoi per me tu. Oddio, adoprerommi, o quanto vezzato è agli occhi miei. Per me se mai potessi